E allora interrompiamo il discorso che stavamo conducendo, chiaramente lo riprenderemo più tardi. Dobbiamo infatti dare spazio a una corrispondenza. Ciao, c'è Alessia dall'altra parte del telefono di Senza Confine. Ciao Alessia. Ciao. Allora, volevamo avere appunto notizie più precise circa i trasferimenti avvenuti nella giornata di ieri dal CARA di Castelnuovo. Allora, la lista, diciamo, delle persone che dovevano essere trasferite è stata praticamente inviata al CARA, così chiaramente dice la direzione del CARA, e anche alla prefettura, sempre, diciamo, stando alle loro dichiarazioni, il giorno prima, alle 6 del pomeriggio, intorno, insomma, al tardo pomeriggio, quindi senza quasi preavviso. È stata inviata una lista di 55 persone da trasferire appunto da Castelnuovo di Porto al centro di Mineo per l'indomani mattina, che era appunto ieri alle 7:30. Quindi noi abbiamo saputo di questa cosa perché allo sportello appunto sono venuti dei ragazzi curdi che ci hanno detto di questa cosa e niente, la mattina abbiamo provato, diciamo, insieme ad altri a impedire o ritardare, insomma, provare a quantomeno esprimere il dissenso, diciamo, e cercare di bloccare questa prima, per ora sembra, deportazione dal CARA di Castelnuovo di Porto. La lista alla fine è stata ridotta perché diciamo, alcune associazioni che seguono alcuni richiedenti asilo che erano ospitati al CARA di Castelnuovo di Porto hanno inviato delle segnalazioni di casi vulnerabili, quindi casi Dublino, donne sole, vittime di violenza e quant'altro, e quindi queste persone sono state depennate, diciamo, dalla lista, che si era quindi ridotta a 40, adesso mi ricordo esattamente, una quarantina. Alcuni la mattina stessa si sono poi rifiutati di partire, quindi la lista, diciamo, le persone effettivamente partite sono 29. A noi risulta che di queste persone che sono partite, alcune che inizialmente avevano detto va bene, insomma, avevano accettato, diciamo così, il trasferimento, avevano poi cambiato idea e quindi hanno chiesto di scendere dal pullman, però questo gli è stato impedito, quindi la polizia non li ha fatti più scendere. Una volta che erano saliti sul pullman non sono stati fatti più scendere, quindi non potevano più cambiare idea. C'è da aggiungere che a molti di loro è stato detto, non sappiamo bene da chi, che nel caso in cui non avessero accettato il trasferimento a Mineo avrebbero perso il diritto all'accoglienza al CARA. Quindi, diciamo, anche parlare di volontarietà, no? Come anche altre associazioni hanno fatto, anche il CIR so che ha fatto un comunicato specificando questo, parlare di volontarietà del trasferimento in una situazione in cui vieni messo davanti a un'alternativa o così o la strada, forse, diciamo, di libertà, di scelta consapevole e volontaria non si può parlare. Certamente è così. Ti stavo per l'appunto ponendo questa domanda rispetto proprio alla volontà o meno dei richiedenti asilo di trasferirsi. Evidentemente, insomma, questa volontà, come hai ben detto tu, non ci sta, o comunque è sottoposta a un ricatto bello e buono. La situazione poi è preoccupante, insomma, da diversi punti di vista. In questi giorni spesso abbiamo sottolineato quanto tutta questa vicenda, questa decisione scellerata di Mineo sta dando tanti problemi, anzitutto rispetto a chi già magari si è integrato nell'interno dei posti, insomma, dei territori in cui si trova, ma l'ostacolo principale, forse la preoccupazione principale, è data dal fatto che chi magari pensava di aver più o meno di essere più o meno giunto alla fine di questo percorso durissimo per ottenere il riconoscimento d'asilo, probabilmente vedrà svanire questa possibilità con il trasferimento stesso. Insomma, parliamo di queste commissioni territoriali regionali che in realtà erano state create dalla Bossi-Fini e che adesso evidentemente, insomma, perdono anche un po' la loro funzione. Come al solito l'applicazione della legge è sempre peggiore della legge stessa, di una legge che già, insomma, era bruttissima, no? Ma sì, infatti, cioè, diciamo che se proprio c'era un'unica cosa positiva, tra virgolette, che avevano fatto con Bossi Fini, era questo decentramento delle commissioni, ovvero il fatto che non esistesse più un'unica commissione centrale come era prima, appunto sulla Roma, ma più commissioni. Questo teoricamente era una buona cosa, cioè è una buona cosa, perché consente di ridurre i tempi di attesa, consente di teoricamente anche lì, perché insomma, di avere una risposta più articolata, no? di avere un'audizione più articolata. Poi nei fatti già non era così, perché c'era molta discrepanza fra, e c'è, continua a esserci molta discrepanza nell'applicazione poi delle procedure da commissione a commissione. Ci sono commissioni che fanno tutto molto rapidamente, ci sono commissioni che fanno delle audizioni molto veloci invece, quindi non approfondiscono bene il racconto del richiedente asilo. Ma comunque, questo diciamo per quanto riguarda il funzionamento. Qui parlando di Mineo, parliamo quindi della commissione di Siracusa, perché per competenza sarà la commissione di Siracusa, si troverà a gestire, non so, 2000, poniamo, perché se la capienza di Mineo è 2000, si troverà a vagliare 2000 richieste di asilo in più. Quindi immaginate soltanto il tempo che ci vorrà per far arrivare i fascicoli da ciascuna delle varie commissioni, dove era prima radicata la competenza territoriale di ciascun richiedente asilo, alla commissione di Siracusa. Io per farvi un esempio, quando un richiedente asilo si trasferisce per sua volontà, diciamo, poniamo da Crotone a Roma, e noi come associazione lo seguiamo, verifichiamo che la questura di Roma riceve il suo fascicolo a volte dopo un anno, cioè lui si trasferisce a Roma, cambia residenza, viene qui con fatica, no? Trova, diciamo, però un inserimento, eccetera. La commissione di Crotone deve inviare il fascicolo a Roma e ci mette appunto svariati mesi fino a punte di un anno. Quindi immaginatevi appunto il ritardo e la condizione di sospensione che queste persone si troveranno a vivere. Nel caso di Castelnuovo di Porto sembra che, a differenza di Bari per esempio, in questa lista, che però non abbiamo avuto modo di poter verificare, ci siano quasi tutti nuovi arrivi, quindi persone che non stanno attendendo la commissione, ma persone che sono arrivate magari da 10 giorni, 20 giorni. Parlando, diciamo, con alcuni di loro, comunque ieri veniva fuori che alcuni stavano qui da più di 20 giorni. E quindi sono proprio quelli che probabilmente già erano a uno stadio più avanzato rispetto alla procedura. Sì, diciamo che avevano comunque cominciato un percorso, no, nei CARA o nei centri, insomma, in altro modo sul territorio, che così viene comunque rimesso a zero. Ecco, il contachilometri, diciamo, torna indietro e viene riposizionato sullo zero. Anzi, forse è il caso di dire meno 20, meno 30, cioè non sappiamo appunto solo per trasferire il fascicolo quanti mesi passeranno, quindi addirittura si trovano in una condizione peggiore, se vogliamo, di chi è arrivato puta caso ieri, no? E ha fatto ieri la domanda di asilo. E cioè, la cosa è veramente, oltre a essere, diciamo, illegittima, quindi a non avere una, ma questo governo ci ha abituato, insomma, no? Dai respingimenti in mare ad altro, alle sue azioni illegittime, magari sanate poi con un decreto che ci spiegherà come, in virtù dell'emergenza immigrazione, dell'emergenza Lampedusa, dell'emergenza Tunisia, Libia o quant'altro, tutto questo appunto permetterà di bypassare le procedure normali, legittime e democratiche, e anche di controllo, diciamo, democratico pubblico, per appunto mettere in atto queste scellerate decisioni. Procedure che già, insomma, erano abbastanza disordinate nel loro corso di per sé, insomma. Senti Alessia, volevo chiederti, ecco, questo il progetto Mineo, prima stavamo parlando, insomma, della speculazione che ci sta dietro e anche degli affari che si consolidano, in modo particolare per una ditta che è la Pizzarotti, che, insomma, è proprietaria di quella situazione. Sembra che appunto il progetto di Mineo stia comunque comunque non stia incontrando grossi ostacoli, nel senso che poi in modo inesorabile questi passaggi si stanno compiendo purtroppo sotto i nostri occhi, anche se chiaramente si provano a fare delle cose. Quello che è stato fatto ieri è certamente un tentativo, insomma, no? Ma per frenare questi trasferimenti quali altri passi si possono fare o si compiranno da qui ai prossimi giorni? Ma, dunque, fino a quando non è chiaro, diciamo, non è chiara la natura giuridica del centro di Mineo, quindi non il fatto che siano più o meno villette belle, carine, che magari è anche vero, che ne so, insomma, questo non è. Però fino a quando non è chiara la natura giuridica, allora dei trasferimenti fatti da Cara, Cara Castelnuovo di Porto o Gorizia o Bari, a un posto di cui non si sa effettivamente qual è la natura giuridica, sono secondo noi illegittimi. Quindi noi proveremo, insomma, anche con altre associazioni e enti che si occupano di tutela del diritto d'asilo, a vedere se ci sono gli estremi per fare anche una denuncia di questo. Il solito problema è che rispetto all'impugnazione possibile, cioè a possibili ricorsi, servono delle carte scritte, e la pubblica amministrazione in Italia, questo proprio, cioè, difficilmente rilascia, no, questi provvedimenti scritti e quant'altro. Noi comunque ci attrezzeremo per monitorare la situazione, sia qui, ma siamo in contatto, insomma, anche con altre associazioni, altri compagni a Bari e in Sicilia, per l'appunto, insomma, anche loro si stanno attivando per comunque manifestare quantomeno la propria contrarietà, no, a tutto questo piano che stravolge completamente il diritto d'asilo, e per vedere se ci sarà appunto la possibilità di impugnare provvedimenti, ad esempio, di rifiuto dell'accoglienza. Cioè, quello che dicevo prima rispetto al ricatto, no? O ti trasferisci a Mineo di tua volontà oppure io ti butto per strada. Questo, appunto, fino a che non è chiara la natura giuridica del centro, non si può fare. Quindi, in presenza della possibilità, diciamo, di fare ricorsi contro questi provvedimenti, noi andremo avanti e lo proveremo a fare. Va bene, allora, in attesa di capire anche meglio la definizione giuridica di questo posto, insomma, vediamo un po' quello che succederà nelle prossime ore. Noi intanto, Alessia, ti ringraziamo per il tempo che ci hai concesso e a risentirci presto. No, grazie a voi per l'interesse che sempre dimostrate su queste tematiche. Ciao, a presto. Ciao, a presto. Ciao. Ciao.